Il problema, come diceva Einaudi, è che i risparmiatori sono come gli uccelli: una volta che uno li fa scappare da un albero è difficile farli tornare indietro. Quindi purtroppo i problemi che il governo italiano ha messo in luce hanno spaventato la gente, gli investitori internazionali, e prima di riconvincere questi investitori che tutto è tranquillo ci vorrà un po' di tempo e tutto deve filare liscio. Quindi chiaramente già queste ambiguità e queste trattative per la formazione del governo spaventano, però secondo me dobbiamo prepararci moralmente e spiritualmente, che non è che Monti, per quanto bravo, possa avere la bacchetta magica. Quindi gli spread scenderanno lentamente solo nel momento e nella misura in cui il governo riesce a far approvare delle misure stabili e c'è una prospettiva di una soluzione a lungo periodo. E nel frattempo la missione Unione Europea BCE è ancora a Roma e ci resterà fino a nuovo ordine, perché il suo mandato non cambia con il cambiamento del governo. Verificare l'attuazione delle misure di riforma economica. Sentiamo Amadeo Altafagi, portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn. Sabato scorso il ministro delle Finanze Tremonti, come richiesto, ha inviato chiarimenti e dettagli sulla lettera dell'ex premier Berlusconi. Ora i servizi della Commissione stanno esaminando le risposte. Il primo rapporto sarà illustrato dal commissario Rehn all'Eurogruppo a fine del mese. Le risposte dell'Italia al questionario sono arrivate puntuali e sono complete, ma l'analisi richiede molto lavoro da parte degli esperti. La missione a Roma è ancora in corso e lavora nel quadro del mandato ricevuto dall'Eurogruppo, che chiedeva di fornire chiarimenti dettagliati sulla lettera dell'ex primo ministro Berlusconi e di seguire l'attuazione degli impegni previsti dalla lettera stessa. Evidentemente questo mandato riguardava il governo allora in carica. Ora ce ne sarà uno nuovo che deve ancora giurare. Ma il primo passo dovrà essere fatto da Roma, non da Bruxelles, nel momento in cui le nuove autorità faranno proprie le misure da predisporre. È chiaro che la nostra diagnosi dell'economia italiana non cambia perché c'è un nuovo governo. Le debolezze, ad esempio sul fronte della crescita, e le riforme strutturali necessarie per l'economia italiana restano sempre quelle. Le previsioni economiche pubblicate dalla Commissione giovedì scorso sono l'espressione più chiara della nostra diagnosi. Le previsioni economiche che sono state presentate giovedì dernier sono l'espressione la più chiara del nostro diagnostico. Come dicevamo, le preoccupazioni non riguardano solo l'Italia e anche in questo caso arrivano dal fronte spread. Quello italiano ha continuato nei primi giorni della settimana ad oscillare intorno a quota 500, ma anche il dato francese, per quanto sempre molto più contenuto e non paragonabile, ha toccato nuovi record superando i 200 punti base. Una tendenza che non può essere sottovalutata se si considera che solo 4 mesi fa anche lo spread italiano si attestava a quel livello. Quali sono i timori dei mercati sulla Francia? Sentiamo Marco Mussanè, corrispondente da Parigi per il Sole 24 Ore, intervistato da Sebastiano Barisoni. Lo spread sta ampliando molto anche rispetto alla Francia, non solo perché salgono i tassi di rendimento dei titoli francesi, ma perché scendono molto quelli dei titoli tedeschi. È una delle considerazioni che è opportuno sempre ripetere. Che cosa preoccupa della Francia i mercati? Ma fondamentalmente due aspetti. Uno è quello della bassa crescita, anzi direi della crescita nulla, prevista per il 2012. Il governo ha preparato una finanziaria, peraltro già ritoccata un paio di volte, che è basata su un'ipotesi di crescita dell'1%. Che è la stessa peraltro prevista dalla Germania. E il problema è che ormai il consenso degli economisti è intorno allo 0,5%, la Commissione prevede uno 0,6%, ma sono in molti a parlare apertamente di una crescita zero o addirittura di una lievissima recessione almeno all'inizio dell'anno. A questo punto è chiaro che la Francia non sembra in grado di tenere e di conservare gli obiettivi di riduzione del deficit e quindi del debito che sono contenuti in finanziaria e che ha annunciato il governo. Il secondo aspetto riguarda la stabilità istituzionale, cioè la Francia non merita la tripla A, questo è un dato di fatto, cioè i suoi fondamentali non hanno niente a che vedere con un paese a tripla A, Il premio che le agenzie di rating assegnano alla Francia riguarda esclusivamente la sua stabilità istituzionale, ed è chiaro che in un momento preelettorale, ricordiamo che ci saranno le presidenziali tra fine aprile e inizio maggio e a seguire le legislative, con la possibilità per di più che la sinistra vinca, è chiaro che è una prospettiva che preoccupa molti mercati. Tra l'altro ti risulta che c'è stato un po' di polemica la settimana scorsa, il giallo di Standard & Poor's sul voto al debito francese. Sembrava che Standard & Poor's gli avesse levato la AAA, poi smentita, in realtà ci ha detto no, gliela voleva levare, ma poi il rischio sarebbe stato così, così alto a livello sistemico che ci ha ripensato. Ma qui intanto solo una considerazione di carattere puramente tecnico, e cioè è impossibile che Standard & Poor's in questo momento abbassi il rating francese, nel senso che l'outlook attualmente per Standard & Poor's, la Francia ha una AAA con un outlook stabile. La prima mossa che deve fare un'agenzia di rating in previsione di un possibile abbassamento del rating è quella di una revisione dell'outlook, quindi l'agenzia di rating comunica allo Stato di aver messo sotto osservazione il suo debito, nei tre mesi successivi eventualmente lo abbassa l'outlook da stabile a negativo, e dopodiché può procedere al downgrade. Quindi che in questo momento un'agenzia di rating improvvisamente abbassi il rating francese è assolutamente impossibile da un vista tecnico. Ciò detto, va ricordato che il 17 ottobre Moody's ha messo sotto osservazione, Moody's c'è un'altra delle tre grandi agenzie di rating, ha messo sotto osservazione l'outlook francese in vista appunto di un possibile declassamento che potrebbe arrivare tra l'altro proprio alla vigilia delle elezioni presidenziali, e lo stesso Standard & Poor's pochi giorni dopo ha comunicato che in presenza di una recessione prolungata la AAA francese non sarebbe sostenibile. Quindi è sicuramente impossibile che Standard & Poor's avesse in qualche modo pronto il downgrade francese, sicuramente aveva da qualche parte nella sua documentazione in prospettiva un possibile downgrade che evidentemente e si è bloccata perché il sbagliato è uscito sugli schermi, ma tecnicamente questo oggi non è possibile. C'è un deficit molto alto in Francia, 4,5% previsto nel 2012 non è poca cosa. Il problema è più strutturale, cioè il problema è che il 4,5% che già è un livello di deficit alto per il 2012, e in questa situazione non è assolutamente conseguibile, questo è il problema. Il problema è che la Francia deve fare, per arrivare al 4,5% a bocce ferme, un'ulteriore manovra correttiva dei conti 2012 nell'ordine dei 10 miliardi. Allora il problema è se effettivamente il governo, il presidente sono in grado di fare una manovra del genere alla vigilia di un appuntamento elettorale chiave. Questa è la domanda. Io però francamente penso che sarà abbastanza inevitabile, cioè non è pensabile, come loro avevano immaginato, che si tenga fino a fine aprile dell'anno prossimo, cioè la situazione precipita giorno per giorno. Con gli spread a 190 è evidente che il nuovo attacco è che la nuova frontiera di difesa dell'euro è diventata la Francia. Peraltro non dimentichiamoci che è il secondo maggior contributore del fondo salva stati dopo la Germania. È ovvio che la Francia qualche cosa dovrà fare ancora, questo è assolutamente inevitabile. Loro hanno fatto all'inizio di questa crisi hanno fatto una politica in realtà tra virgolette in qualche modo espansiva, cioè nel senso che hanno scommesso sul fatto che l'economia sarebbe ripartita, hanno fatto questo mega prestito di 37 miliardi di euro per finanziare l'economia, e questo ha avuto un impatto forte sul deficit. Certo, loro contavano appunto di poter contribuire in questo modo a una ripartenza più solida e più veloce dell'economia, e quindi poi di poter far fronte all'impatto sui conti, cosa che non è avvenuta e si trovano nei guai. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.